La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buona festa della Repubblica e abbiamo deciso di dedicare proprio questa puntata nel 2 giugno, il 70° dell'anniversario del referendum istituzionale, a una riflessione controfattuale, per così dire. La storia controfattuale è quella del come se non fosse avvenuto ciò che è avvenuto, cosa avrebbe potuto essere. È una... esercizio a volte interessante, a volte naturalmente può sconfinare nella fantascienza, però è un esercizio interessante quando la storia italiana, come in quell'occasione, propose una frattura, la frattura era profondissima dal punto di vista istituzionale in termini di continuità. Noi eravamo un paese abituato per secoli alla sovranità monocratica in forma regale o comunque signorile. Il suffragio universale esteso per la prima volta alle donne in quel 2 giugno portò al risultato invece di trasformarci in Repubblica, che era un obiettivo per cui avevano militato solo minoranze in realtà di colore e culture diverse e con esiti che di solito erano molto avversati ovviamente dalle monarchie che insistevano con il loro potere sul territorio italiano. Ricordiamoci un secondo di che cosa avvenne in quel 2 giugno, abbiamo una testimonianza. Mercoledì 5 giugno, dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Il Presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al Presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Intanto, sulla torretta del Quirinale, viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia. La sola, forse, che ancora sventolasse su un pubblico edificio. Allora, come avete ascoltato, siamo giorni dopo il referendum. Ovviamente all'epoca le procedure erano quelle che erano e in realtà poi la pubblicazione ufficiale dei risultati del referendum avvenne solo il 10 di giugno con la presa d'atto formale della Corte di Cassazione. C'è tutta una letteratura che si è sviluppata nel tempo sui possibili brogli intorno al risultato, un risultato che vide per 12 milioni e 700 mila voti su 10 milioni e 700 mila affermati la Repubblica. Io vi ricordo solo che ascoltatori che per la Repubblica si erano pronunciati i partiti che c'erano all'epoca che innervavano la vita politica dell'immediato dopoguerra italiano, comunisti, socialisti, repubblicani e Partito d'Azione, erano da sempre di orientamento repubblicano. Alla fine dell'aprile del 46, quindi prima del referendum, nel suo primo congresso, la Democrazia Cristiana a scrutinio segreto decise di deliberare su quale sarebbe stata la sua posizione ufficiale e vinse nel primo congresso della DC la posizione della Repubblica. E l'unico partito del CLN che era per la monarchia era il Partito Liberale, che anch'esso ribadì questa scelta nel suo congresso nel mese di aprile, quindi prima della consultazione referendaria. Da questo punto di vista, certo, c'era un pronunciamento chiaro e netto, e pur tuttavia, agli stessi decenni della Repubblica, c'è chi ha iniziato a rialimentare, c'è chi non ha mai perso la fede monarchica, minoranza sconfitta, chapeau, e c'è chi poi, di fronte agli esiti della Repubblica, la Repubblica dei partiti, ha iniziato a rimuginare se poi non ci fosse qualche cosa da ripensare intorno alla scelta repubblicana. Allora, senza rimettere in discussione la storia, io non credo che ci siano stati brogli tali da spostare 2 milioni di voti, però gli storici hanno, ci sono divisi, per così dire. Qualche incidente ci fu, a Napoli ci furono anche dei morti per proteste da parte monarchiche rispetto ai presunti brogli del voto repubblicano. Però la domanda che ci poniamo oggi è: sentiamo, perché una volta ogni tanto bisogna farlo, chi continua a coltivare, alla luce dell'esperienza poi della Repubblica, delle opinioni critiche su quella scelta, e pensa che magari bisognerebbe ragionare sull'esperienza che monarchie costituzionali hanno offerto anche in questi decenni rispetto a repubbliche travagliate come la nostra. Allora, abbiamo due ospiti con noi ai quali chiedo proprio di rimanere con questo spirito a fare delle riflessioni che non sono la contestazione dell'epoca, ma farci capire perché loro rimangono fondamentalmente convinti che forse bisognerebbe rifletterci tutti i giorni su questa storia della Repubblica, come se non fosse una partita chiusa. Allora, ecco, sono con noi, io li ringrazio, il presidente dell'Unione Monarchica Italiana, Alessandro Sacchi. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a lei. E il presidente del Movimento Neoborbonico, Gennaro De Crescenzo. Grazie anche a lei di essere con noi. Eccoci, buonasera a tutti anche. Allora, Sacchi, perché lei oggi ancora mantiene con i suoi sodali accesa questa fiacca dell'Unione Monarchica Italiana? Noi abbiamo smesso da molto tempo di polemizzare e di discettare sulla revanche, su come andarono le cose, certo, nel 46. Però la riflessione che induce moltissimi giovanissimi a aderire alla nostra associazione è comparativa. Le più belle democrazie parlamentari della terra, e questo è indiscutibile, sono le monarchie europee, che offrono un esempio praticato empiricamente, quindi oggettivo, indiscutibile, della terzietà del capo dello Stato rispetto alle parti che legittimamente dibattono. Cioè lei dice nei paesi del nord Europa o in Gran Bretagna? Gran Bretagna, Spagna, Norvegia, Svezia, Belgio, gli esempi sono sono moltissimi, e le cose là funzionano. Allora, come diceva Montesquieu, i tre poteri dello Stato, ce n'è un quarto, oltre al legislativo, esecutivo e giudiziario, c'è il potere arbitrale, e l'arbitro della partita non può essere terzo e imparziale se per una cinquantina d'anni ha indossato la casacca di una delle squadre che stanno giocando. Cioè lei dice, da Oscar Luigi Scalfaro a Giorgio Napolitano ne abbiamo viste di tinte diverse, ma interpretazioni personali. Ne abbiamo viste, no? Di cotte e di crude. Ecco. Viceversa, ci sono degli esempi vicinissimi e senza ricorrere a secoli passati. La Spagna, che dopo 40 anni di una dittatura feroce si inserisce nell'Europa democratica a pieno titolo, soprattutto grazie alla guida illuminata di un re come Juan Carlos. Che di fronte a Tejero in Parlamento con la pistola spianata tiene unito il paese e manda a casa quelli che volevano fare il colpo di Stato militare. Tiene testa a Tejero e mantiene i nervi saldi perché non aveva simpatia per nessuna delle squadre. O più recentemente in Belgio hanno potuto consentirsi di stare 2 anni senza un governo perché il Parlamento non era capace di esprimere una maggioranza, eppure non sono saltati i nervi a nessuno, pur nella diversità della popolazione belga, che come lei sa è composta da valloni e fiamminghi, e tra di loro non corre buon sangue, non c'è un'armoniosa condivisione di moltissimi valori comuni. Lì ci sono sei diverse assemblee diverse, lasciamo perdere il Belgio, sono veramente etnie quasi diverse per tradizioni, per religioni. Però lei dice, nella comparazione non si possono avere dubbi. Nella comparazione la monarchia vince. Abbiamo fatto un bel convegno a Roma sabato scorso dove è venuta fuori questa riflessione. Oggi è possibilissimo trovare al vertice di una repubblica un despota, ma non al vertice di una monarchia. Le monarchie offrono uno spettacolo oggettivo di funzionalità e di esercizio della funzione sereno, senza nessuno strappo, senza mercanteggiamenti quando scade il mandato. Il problema però è l'obiezione fondamentale, è che i Savoia hanno fatto un esercizio del loro potere che li ha messo contro gli italiani, poi alla fine quando sono andati a contare i voti. Cioè non hanno Guardi, saputo Giannino, eh no, è non questo c'è nessuna delle obiezioni che si muovono ai Savoia che non trovi una sua giustificazione. Sì, ho capito. O dal punto di vista del diritto costituzionale, quello che vuole, però il fascismo, le leggi storica. Razziali e la guerra, ecco, se lei mi dice Juan Carlos avrà tanti difetti, sarà un donnaiolo, ma il profilo istituzionale è quello che ha detto lei, è uno che ha saputo, ma io le posso dire che del 22 furono le Camere che diedero la fiducia a Mussolini. Sono d'accordo con lei, però... voglio dire, gli atti parlamentari stanno là, poi la storia però, si può leggere in tanti modi. Esatto, la fuga dell'8 settembre. Detto questo, non serve a... Noi non siamo qua per, ovviamente, per ridividerci o rifare il battito su quello di allora. Però mi interessa sapere questo. Lei dice, in termini comparati... La proposta non è riferita alla monarchia quale fu. Ma no, perché altrimenti saremmo poi... Saremmo dei pazzi. Ridicolo, no, a perdere tempo oggi. Però lei dice, riflessione in termini comparati. Posso chiedere al generale De Crescenzo, dal vostro punto di vista, è un revanchismo per la storia dell'unità? Mi pare un po' difficile tornare indietro. Oppure anche voi dite, no, in termini comparati, pensiamo a che cos'era la dinastia nel sud, quello che faceva in concreto e quello che c'è oggi. Com'è che ragionate voi per il vostro movimento neoborbonico? Guardi, prima di tutto dobbiamo dire che noi non siamo un partito monarchico, noi abbiamo un rapporto di grande affetto, anche di collaborazione con la Casa Reale Borbone di Sicilia, con il Duca di Castro, che Carlo di Borbone, che è l'attuale capo della Casa. E però noi non siamo un movimento monarchico, siamo un movimento culturale che ha come obiettivo principale la ricostruzione della verità storica, dell'orgoglio di essere meridionali e tutto sommato ha come obiettivo la difesa del Sud. Sì. Per noi diciamo che il discorso monarchico, quello repubblicano, possono essere pareggiabili nella misura in cui sono più o meno dannosi per il Sud, sono stati più o meno dannosi per il Sud. E voi dite la Repubblica è stata più dannosa del Sud di quanto non fosse la dinastia borbonica? Guardi, se noi guardiamo la Napoli, per esempio, di Carlo di Borbone, noi quest'anno celebriamo i 300 anni della nascita di Carlo di Borbone, e guardiamo al sud di Carlo di Borbone e lo confrontiamo con quello che è stato il sud di Savoia o il sud di questa Repubblica, cioè insomma, ci vengono un po' i brividi, i massacri compiuti dai Savoia, i saccheggi compiuti dai Savoia, l'unificazione che è stata in sintesi poi una conquista, una colonizzazione di una parte del paese rispetto all'altra, ci fanno capire che in realtà il confronto non è possibile neanche con i re che vennero dopo, con i Ferdinando II, i re dell'orgoglio, i re del sud a testa alta, dei primati soprattutto economici, quindi questi confronti non reggono. Se poi diamo un occhio a quello che è successo nella Repubblica, ci rendiamo conto che questo stato di colonizzazione del sud, di subalternità del sud, dura, continua, a prescindere dalle istituzioni, ed è un dato ricorrente. Io le ricordo un dato che spesso facciamo fatica a ricordare noi tutti che studiamo, anche diciamo in buona fede, no? Su 155 di anni, 155 di anni di unità, 24 anni abbiamo e 8 mesi abbiamo avuto dei governi con dei premier meridionali. Questa cosa qualcosa ci fa capire, insomma, la questione meridionale prima dell'unità non c'era, dopo l'unità c'era e continua ancora oggi ed è sempre più drammatica e questi governi fanno a gara a dimenticarla. Il problema è tutto lì, piuttosto che nelle istituzioni, magari può darsi che fra 30 anni, fra 40 anni i meridionali, gli italiani saranno chiamati a scegliere un'altra volta, magari può darsi che possano scegliere un assetto istituzionale diverso da quello che c'è oggi, che devo dire, a conti fatti, sempre visto da sud, non c'è convenuto e non ci conviene, questo è un confronto sui dati piuttosto che sulle idee. Da quello bisognerebbe partire, è quello che stiamo facendo da circa 23 anni come movimento culturale senza attirarci mai politicamente e devo dire che è un successo abbastanza significativo perché e però se posso farle un'obiezione, io capisco, insomma, io leggo avidamente tutte le basi economiche, ci sono anche un po' di miti su questa presunta forza precedente straordinaria rispetto alle debolezze. Le debolezze economiche successive all'unità non si discutono, se uno va a vedere le serie storiche, va a vedere gli anni di divergenza che si amplia, che battono quelli di convergenza. Purtroppo la grande convergenza c'è stata in buona sostanza nei 15 anni del secondo dopoguerra, prima non c'è stata, neanche a seguito delle grandi leggi per il sud nittiane e post-nittiane con il fascismo, poi si è interrotta dopo gli anni 70 di nuovo e adesso siamo di nuovo in fase, in questa lunga crisi italiana di divergenza che si amplia. Però voglio dire, ci sono anche un po' di miti sulla presunta forza precedente. Per esempio le tasse erano molto più basse, vero, però la qualità dei servizi rispetto a quello che c'erano altrove, nella Lombardia austriaca o nel Piemonte dei Savoia, era più bassa. Ma io non voglio discutere di questo. Quello che voglio invece riflettere insieme al generale De Crescenzo è questo: però perché in tutti questi decenni al sud sempre si è rivolto allo Stato centrale e non ha mai visto dal basso organizzare cose di decentramento, di federalismo, perché la richiesta è sempre stata: Roma ascoltaci, Roma dacci risorse e così via. Allora, la risposta a questa domanda, però, dopo un minuto, perché facciamo l'interruzione sul traffico e poi ripartiamo da questo. Come avrete capito, la riflessione di oggi è una riflessione controfattuale, sì, ma è sui difetti della Repubblica più che sulla forza della monarchia, anche sulla forza della monarchia in termini comparati istituzionali, ci dice Alessandro Sacchi. Generale De Crescenzo ci dice: beh sì, però andiamo a vedere anche che cosa ne è davvero venuto nell'unità italiana e poi con la scelta della Repubblica. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori, in questa trasmissione dedicata al tema istituzionale. 2 giugno abbiamo sentito all'inizio l'annuncio ufficiale, dopo giorni e giorni, di questo voto in cui vide la Repubblica battere la monarchia con 2 milioni di voti. È ovvio, nella testa degli italiani restava l'8 settembre, la fuga dei Savoia, la tragicità del secondo conflitto, le vittime, un paese che aveva il suo capitale fisico, industriale, finanziario totalmente a terra, ma a terra davvero, visti i bombardamenti e le vittime e così via. E però ci interroghiamo con Alessandro Sacchi, che è il presidente di Unione Monarchia Italiana, e Gennaro De Crescenzo, che è il presidente del Movimento Neoborbonico, sulle ragioni per cui in Italia ancora migliaia di persone ragionano, e non per fare i nostalgici o per ripristinare appunto le vecchie bandiere monarchiche, ma in termini comparati dicono: no, scusate, ma possiamo essere critici? Allora, Gennaro De Crescenzo, lei ci dice giustamente, essere storiche alla mano, il Sud, se andiamo a vedere, in 155 anni ci ha guadagnato, ci ha perduto. È ovvio che non stiamo parlando di livelli di reddito pro capite, oggi sono molto più alti, ma rispetto ai grandi processi di convergenza o dai punti di partenza e delle distanze che c'erano all'epoca dell'unità, beh, ci abbiamo rimesso più che guadagnato. Però perché il Sud ha sempre chiesto più Stato, Stato, Stato, invece che dire battersi in alcune fasi della storia italiana, anche recente, il Nord ha tentato di farlo, ha detto: beh, dateci più decentramento, ci pensiamo noi. Perché al Sud è meno forte questa radice, De Crescenzo? Allora, partiamo da un dato: il Sud aveva un suo sviluppo, soprattutto di carattere industriale, anche se diciamo poco conosciuto. Gli studi nostri, soprattutto miei, quando ero più piccolo, archivistici, confermati, devo dire, da tanti studiosi accademici, anche recenti, i Fenoltea, i Ciccarelli, i Daniele, i Malanima, ci fanno capire che in realtà il Sud aveva un suo sviluppo industriale. Noi avevamo 1.600.000 occupati nelle industrie, erano il doppio degli occupati nelle industrie nel resto dell'Italia. Quindi vuol dire che avevamo un nostro sviluppo, con pregi e difetti. No, no, certo. Comunque, gli opifici sotto il protezionismo dell'epoca, certo, voluti dalla dinastia, c'erano, questo non c'è dubbio. Certo, e quindi potenzialmente c'è la possibilità di sviluppo che è stata interrotta. Dopodiché poi vediamo questo popolo, massacriamo, insomma, gli ultimi dati, soprattutto portati alla luce dalle ricerche archivistiche di fine aprile, ci rivelano dati che fanno veramente un po' impressione, perché qui si parla di 10 anni, dal 1860 al 70, di circa 500.000 persone in meno che mancano dagli studi demografici. Qualcuno ci dovrebbe dire, dopo 150 anni, queste persone che fine hanno fatto? Probabilmente sono stati massacrati, sono stati deportati nel resto dell'Italia. A questo ci aggiungiamo poi, dal 1870 in poi, 5 milioni di migranti, sì, dal sud fino al 1860 non partiva nessuno, quindi diciamo in qualche modo si sopravviveva, non era l'età dell'oro quella borbonica, ma si sopravviveva. E questi 5 milioni in 50 anni, dal 1870 al 1913, sono classi dirigenti vacanti, sono giovani che vengono meno, insomma, in una tragedia, quella dell'emigrazione, che continua ancora oggi, no? Li formiamo i nostri giovani, li paghiamo e poi li mandiamo nel resto dell'Italia all'estero a lavorare. Insomma, è un paese che ha uno sviluppo duale, con una parte del paese che produce e uno che consuma. È inevitabile che poi, dopo 150 anni, in anni di crisi, una parte del paese, quella che è abituata solo a consumare, perché così ha deciso il destino di questa Italia, inizia a chiedere di più allo Stato centrale. Fino a quando le cose andavano bene per tutti. E però lì si avviluppa il loop, perché capisce che lo Stato cosa fa? A seconda dei cicli in cui gli è possibile aumentare la spesa e i trasferimenti, questo è quello che ha fatto, con i trasferimenti aumenta la dipendenza dai trasferimenti, virgola, desertifica, alla luce dei fatti, non per mia ideologia, i presupposti per un'impresa vera, ancora di più, rende ancora più dipendenti e più bassi i livelli di reddito pro capite, perché tragicamente questo è il loop che è avvenuto con l'assistenzialismo centrale. Perfettamente d'accordo, lei ha fatto un'analisi pugilistica come al solito. Il problema è tutto qui. Diciamo che mi faccio dire una cosa strana: forse in un periodo di crisi come questo qui, probabilmente il Sud deve ricominciare il suo percorso, partendo però dai suoi dati, dal suo orgoglio, dalla sua identità, imboccarsi le maniche da solo e iniziare a fare un percorso di autonomia. Però se il Sud non riacquista la propria memoria, il proprio orgoglio, tutto questo sarà molto difficile, saremo sempre costretti a elemosinare qualcosa. Noi non dobbiamo elemosinare niente, noi dobbiamo chiedere, pretendere, par condicio in tutta Italia, e quindi se si fa l'alta velocità che arrivi fino a Palermo, se si stabilisce un sistema portuale valido che si faccia fino alla Sicilia, insomma dobbiamo iniziare a essere trattati come un paese unito. Poi nei fatti questo paese non è stato mai unito. Cioè, lo dico per l'ascoltatore, perché noi naturalmente abbiamo gente che subito insorge dicendo, beh cos'è, ti dimentichi, fai tutte le trasmissioni sulle cose che non funzionano nel Sud. Allora, un momento, aspettate un po', invece sono collegate le cose, perché tentiamo di essere ragionevoli. Tutte le inefficienze, quando parliamo delle inefficienze dello Statuto Speciale Siciliano, di quello che succede nei conti in Sicilia e così via, e quando parliamo, come abbiamo fatto recentemente, del quello che avviene alla ASL di Reggio Calabria senza contabilità da anni e così via, guardate che una parte di questo inviluppo Stato assistenzialismo dipendenza, no, quindi non lo dimentico affatto, è questo che va cambiato, infatti è un pezzo di quello che va cambiato, perché il problema è sono le condizioni poi per avere uno sviluppo economico autocentrato, e lì le condizioni lo Stato non le ha sapute creare, c'è poco da fare in ampie parti, non è il Sud, non esiste un Sud indifferenziato, però in ampie parti è così. Allora, per questo io sono contento di aver dato voce al generale De Crescenzo. Come avete capito, il movimento neoborbonico non è una roba di nostalgici che dicono vogliamo tornare con Rebomba, è una associazione di persone che dicono no, noi vogliamo ragionare sullo sviluppo del Sud, e sono due cose non diverse. È un simbolo per usare questa roba, mi sbaglio De Crescenzo? Perfettamente d'accordo, ha fatto un'analisi utilissima e la ringrazio per questo, insomma, merce rara quando si parla di giornalismo. No, vabbè, ma non è merce, è un giorno tale per cui dobbiamo sforzarci di capire chi si identifica in altre tradizioni, non lo fa perché è un pazzo alla Totò, lo fa perché vuole ragionare. E Sacchi, torno a Sacchi, perché Sacchi ha in questo elemento di efficienza istituzionale comparata, anche qua c'è un referendum costituzionale che arriva, dovremmo un po' ragionarci su come funzionano meglio gli altri ordinamenti, mi sbaglio Sacchi? Forse per tornare un attimo solo all'argomento che avete appena affrontato, bisognerebbe cominciare a ragionare in termini non di orgoglio semplicemente lamentato, ma di considerazione che forse gran parte delle malattie che affliggono il meridione, io sono napoletano, sono figlie non dei massacri fatti dai Savoia e da centinaia di migliaia di desaparecidos. Che poi queste notizie non so da dove sortiscano fuori, evidentemente. No, ma adesso non entriamo nei particolari della di Pino Aprile, della lettura delle sorgenze. Non ha letto Settembrini, non ha letto Poerio, ma no, però è questo, guardi, è ciò quello premesso, che ecco, ciò premesso. Ciò premesso, è una mentalità millenaria di feste, farina e forca. Sì. Perché al Sud non è mai esistita, o se è esistita è stata molto marginale, una piccola imprenditoria che poi è quella che fa girare le cose bene al Nord. Sono d'accordo, qua, però un giovanottino che finisce gli studi difficilmente dice adesso imparo a fare il camiciaio, va sotto il comune a chiedere il posto. Questa è la differenza fondamentale. Non lo so se, ci sia questa cosa nel DNA del nord e del sud. Io che difendo gli tassi superiori di sviluppo, no, io credo che il DNA non sia. Io credo che, come ci insegna Douglas North, institutions matter, cioè. C'è, le istituzioni nel tempo sedimentano con la loro efficienza o inefficienza, con le loro logiche di relazione invece che di merito, dei comportamenti da parte delle popolazioni nel basso, e in questo le do ragione. Non credo che il DNA del sud sia diverso da quello del nord, cioè non ci credo una teoria razziale dell'efficienza detta proprio fuori dai denti. Ma invece quello che mi interessa è quando voi fate ragionamenti sull'efficienza istituzionale comparata delle monarchie europee rispetto alle repubbliche come le nostre, chi vi viene dietro? Cioè, i giovani sono interessati? Qualcuno tra i giovani è interessato o siete dei vecchi nostalgici, Sacchi? No, sono moltissimi giovani. I nostalgici non ci sono più. Giannino, io sono nato nel 64, 18 anni dopo il referendum. Quindi voglio dire, nostalgia di una cosa che non si è conosciuto. Anzi, il mio modello istituzionale e a poco punto a che vedere con quello che fu la monarchia in Italia fino al 46. I nostri giovani entrano in un negozio di Barcellona e trovano in una merceria il ritratto del re. Ma Sacchi, ma se lei, ammettiamo per un'ipotesi che ci sia un rivolgimento tale da rimettere in discussione la forma istituzionale del nostro paese, e a quel punto però si creerebbe il problema, a chi affidare l'eventuale corona, e lei che risposta darebbe? Io le dico, oggi Amedeo d'Aosta, domani suo figlio Aimone. senza perdere tempo e senza cincischiare su questioni che vengono alimentate solo da certa stampa, che comparativamente ha interesse a sottolineare la inadeguatezza di certi personaggi. No, adesso non entriamo nel merito della Casa Savoia recente, tutto, però mi ha dato una risposta. Io, a dire la verità, non so se arriveremo mai al punto tale da avere rivolgimenti sociali di quel tipo, però mi rivolgerei verso altre case sovrane. Io credo che il conto con i Savoia lo abbiamo chiuso storicamente, questa è la mia opinione, non l'ho mai cambiata da quando ero, ohimè, io ero giovane iscritto al Partito Repubblicano, lo ammetto, non c'ho niente di cui dovermi nascondere, non ho mai cambiato idea sugli errori storici dei Savoia, cosa diversa da Cavour, Mazzini e Garibaldi, ma insomma questa è la storia. Abbiamo fatto una riflessione con Sacchi e De Crescenzo un po' paradossale, ma non troppo, in questo 2 giugno che io continuo ad augurarvi buona festa della Repubblica a tutti. Continuate su Radio 24.